Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Robert Levin. Guten Morgen. Viele westliche Staaten beeilen sich, ihr Botschaftspersonal aus Afghanistan zu bringen. Grund ist der Vormarsch der radikal-islamischen Taliban. Die ersten US-Soldaten sind schon in der Hauptstadt Kabul, um dabei zu helfen, die Flüge abzusichern. Zur aktuellen Lage Peter Hornung für WDR Aktuell. Das Personal der deutschen Botschaft, das soll auf das absolute Minimum reduziert werden. Das sagte auch gestern Bundesaußenminister Heiko Maas. Und auch weitere westliche Botschaften kündigten an, das Personal deutlich zu reduzieren. Einige überlegen sogar, ihre Botschaften zu schließen, die Niederlande zum Beispiel, oder haben diese Schließung schon beschlossen, Norwegen zum Beispiel. Das heißt, das Botschaftspersonal allgemein der westlichen Staaten wird deutlich reduziert in Kabul, weil man eben diese Bedrohung sieht durch die Taliban, die auf die Hauptstadt vorrücken. Bei der Flutkatastrophe sind die Bauernhöfe in Nordrhein-Westfalen stärker getroffen worden als bisher angenommen. Die Landwirtschaftskammer NRW sagt, dass bei 300 Höfen Ställe, Häuser oder Maschinen beschädigt wurden. Die Kammer war bei einer ersten Schätzung noch von 100 betroffenen Höfen ausgegangen. Klaus Janssen, WDR Aktuell. Wie sieht die Bilanz einen Monat nach den Überschwemmungen aus? Das kann die Landwirtschaftskammer noch nicht abschließend sagen, aber mittlerweile haben sich schon viele Landwirte gemeldet. Und da hat sich gezeigt, dass es die meisten Hochwasserschäden in der Landwirtschaft im Raum Aachen und in den Kreisen Düren und Euskirchen gibt. Es sind nicht nur Gebäude und Maschinen betroffen, oft sind auch Felder überschwemmt worden. In einigen Fällen wurde die Ernte vernichtet und auch Futtervorräte sind weg, denn Heu- und Strohballen für die Tiere sind vom Hochwasser einfach mitgerissen worden. Was mit Schadstoffen auf den Äckern und Wiesen ist, zum Beispiel Schwermetallen und Öl. Das werden wir erst in etwa 2 Wochen genauer wissen, sagt die Kammer. Bis dahin sollen Proben von 150 überfluteten Gebieten ausgewertet werden. Vielen Dank. Weitere Meldungen im Überblick. Die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser in der Türkei ist weiter gestiegen. In der Region am Schwarzen Meer starben mindestens 38 Menschen. Noch ist unklar, wie viele Menschen genau vermisst werden. Die Überschwemmungen wurden durch starke Regenfälle vor 3 Tagen ausgelöst, während sich die Türkei gerade erst von schweren Waldbränden im Süden des Landes etwas erholte. In Frankreich stellen sich Behörden und Polizei das 5. Wochenende in Folge auf Proteste von Gegnern der Corona-Regeln ein. Zehntausende werden bei Demonstrationen in mehreren Städten erwartet. Sie kritisieren die verschärften Nachweispflichten und die Anordnung, dass sich Personal in Gesundheitszentren impfen lassen muss. Facebook bekommt Gegenwind bei seinem Wachstumskurs. Die britische Kartellbehörde hat Einwände dagegen, dass der Konzern die Videoclip-Plattform Giphy kauft. Die Behörde begründet das mit dem Schutz von Userdaten. Demnach könnte Facebook andere Plattformen, die auch Giphy nutzen, zwingen, Informationen über ihre Kunden weiterzugeben, also zum Beispiel TikTok oder Snapchat. Im Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga kam Titelverteidiger Bayern München bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinaus. Es war das erste Spiel seit Monaten vor tausenden Zuschauern. Cosmo aus der Region. Im Ruhrgebiet ist früh am Morgen das internationale Kulturfestival Ruhrtriennale gestartet. In den ehemaligen Hallen der Schwerindustrie des Ruhrgebiets kommen bei vielen Veranstaltungen rund 600 Künstler aus 30 Ländern zusammen. Regina Völz, WDR Kultur. So früh ist wohl noch keine Ruhrtriennale gestartet. Im Morgengrauen um 5 Uhr mit einem Konzert in der ehemaligen Maschinenhalle der Zeche Zweckel in Gladbeck im nördlichen Ruhrgebiet. Die Geister der Nacht will die neue Intendantin Barbara Frei heraufbeschwören. Das ist ihr Weg, sich mit der Vergangenheit zu befassen. Bis zum 25. September sind 117 Veranstaltungen geplant. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute viel Sonnenschein, vom Niederrhein über das nördliche Münsterland bis ins Mindenerland etwas mehr Wolken, aber trocken. Maximal 24 Grad in Coesfeld, 25 in Hamm, 26 in Hürth. Morgen mal Sonne, mal Wolken und weiter trocken bei 22 bis 26 Grad. Das war WDR Aktuell. Cosmo. Italia. Taglia a metà l'anima della città, tu che ne piene le palpebre di parolacce romantiche, suona una radio che fa na na na na na na na, lo scrivo sopra la polvere, succederà, fermati qua, vista dalla finestra, ehi, tu, la luna sembra un'altra, ma giù là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina, sì, però ancora un movimento lento, poi chiami un taxi. Come un serpente che si attorciglia, gente tra la gente, attimo fuggente, battito di ciglia. Una scena di Almodovar, sì magari ti chiamo magari, pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi, da queste parti facciamo presto a fare tardi. Ancora un movimento lento, l'estate in una goccia sola, tra la pioggia che ci sfiora, il cielo rosso come ancora. Fino a domani, fino a domani, fino a domani. Sempre fare così, ma poi ti fa male da solo e non sai mai quale motivo. Ho perso un'altra sonda nel cielo, cercavo di vedere dall'alto dove finisco quando mi perdo, perché niente mi è mai chiaro visto da vicino. Forse mi conosci solo tu, che poi un attimo che sfuga tutto all'improvviso, un altro mondo già ci attende un po' più su. Cerco nuove strade per uscire da me. E forse che appartengo a un mondo un po' magico. Vorrei volare via lontano da qui. E a volte sento tutto attorno un po' strano. Chissà se qualcun altro ha fatto così. Gli occhi non sei più qui, scompaiono i confini del corpo e tutto ciò che ti circonda. Ricordi quante volte nel cielo ci è parso di vedere una luce pulsare a te. Con ogni suono, ogni filo d'erba al mondo visto da vicino. Un giardino, un universo poco più. In un attimo nascondi il tuo sorriso. attorno si dipinge un po' di blu. Cerco nuove strade per uscire da me. La mia casa, vorrei qualcun disturbo e nessuno disturba me. Lo spazio non è tanto, ma va bene così com'è. Con tanti fiori gialli che si schiudono intorno a me. E se verrai a trovarmi, chissà cosa porterai. Un sacco di ricordi e di storie, quante ne hai? Io qui un tappeto rosso e tanto tempo per pensare. Ho già il vestito buono, ma non posso più tornare. 2 metri sotto un prato, ho trovato la mia casa. Il sole è sempre forte e mi trova anche qui. 2 metri sotto un prato, non scorderà il mio nome. Non perdere il sorriso che hai sempre dedicato a me. Le porte tutte chiuse, c'è chi ha trovato il modo di ritrovarsi insieme e chi di andare via. Un ultimo sorriso per farmi vedere forte agli occhi della sorte che mi ha portato via. E se verrai a trovarmi, chissà cosa penserai a tutte le risate, le vittorie oppure i guai. Un tappeto rosso e sembra sempre di volare, ma solo tra i ricordi, perché non posso più tornare. 2 metri sotto un prato, ho trovato la mia casa. Il sole è sempre forte e mi trova anche qui. 2 metri sotto un prato, non scorderà il mio nome. Pensieri quando entrano non li puoi più cacciare, e mentre guardi fuori vedi solamente il mare. Sarà la primavera a ricordarti cosa è stato, di tutte le avventure e cicatrici di un passato che non torna neanche quando lo vorresti veramente. Ti saluto da lontano, cazzo quanto sei distante. Le lacrime non servono a cacciare quella rabbia che c'è dentro, ora girati e vai via. 2 metri sotto un prato, ho trovato la mia casa. Il sole è sempre thank you. colazione, eccoci in cucina, col caffè, con l'aspirina, vuoi parlare oppure no? Facciamo colazione, a cola la tua testa, nella testa c'è una festa, ma l'invito non ce l'ho. Arrabbiata, fissi l'aranciata, ma dimmi come si fa, amore, dimmi come lo togliamo il cuore dal frullatore. Io mi spremo come un limone, ma il succo della questione qual è? Voglia di sudare, stare senza l'ombrellone. Ti va di stare male, tu ti tieni la maglietta, io ti tengo stretta, stretta, con la voglia di tornare. Arrabbiata, butti l'aranciata, ma dimmi come si fa, amore, dimmi come lo togliamo. Succo della questione, qual è? Ma dimmi come si fa, amore, dimmi come lo togliamo il cuore dal frullatore. Io mi spremo come un limone, è il succo della questione, chi è? Parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa vuoi solo quando avrai perso qualcosa davvero. Siamo voci che girano al mondo e non cambiano mai come un eco. Soltanto hai saputo vedermi meglio di com'ero. E oggi che non c'è più musica, cosa ti resta di me? I'm still counting the days since you've gone, everything's black and white, and I can hear your name. I see giorni, ma chi li ha resi migliori? Non ricordiamo la musica, ma i momenti che ci legano alle canzoni. Le parole sono tutte uguali, ma cambiano aspetto a seconda di chi te le dice. Un dipinto che non ha colori, resta un semplice foglio con una cornice. Siamo stelle cadute in silenzio dallo stesso cielo, due binari con strade diverse che portano a un unico treno. Ma ti ho dato la parte peggiore di quello che avevo. oggi che non c'è più musica, cosa ti resta di me? I'm still counting the days. I'm still counting the days. Passano gli anni e capodanni, passano anche i sentimenti, e passo io. Voglio tornare a Zanzibar, perché lì si vive meglio, perché lì sarò con te, anche se mi capisci a stento. Tornare a Zanzibar, perché lì si fuma meglio, perché lì sarò con te, anche se mi capisci a stento, anche se lo Italia. Eccetera. Ho messo i puntini alla fine delle mie bozze. Ho troppo da dire anche se uso frasi corte. Lo faccio se no perché vivo, la vista si appanna, chiudo il finestrino. Parli di futuro, dico forse, non scrivo fine, eccetera. Sogno ad occhi aperti una montagna di quei monei. Sono troppi per volare come gli aquiloni. Sulla punta della blu, qui nessuno che mi aiuta. Segui questa andatura giù. Capita a volte di stare da soli, aiuta ad apprezzare il mondo là fuori. Vedervi cantare i miei versi migliori, meglio di ricevere dei bei fiori. Giustificazioni per fare dell'altro, il mio successo non lo dice l'astro. Sono fuori dagli schemi peggiori, senza aver mai sbagliato i miei copioni. Tutti fanno errori, tutti fanno errori. Ehi, hey. Sogni delicati come castelli di sabbia. I puntini alla fine delle mie bozze. Ho troppo da dire anche se uso frasi corte. Lo faccio se non perché vivo, la vista si appanna, chiudo il finestrino. Parli di futuro, dico forse, non scrivo fine, eccetera. Sogno ad occhi aperti una davanti a te, identico, nemico no, io non ti ho mai tradito. Sono come te, come te, come te, ti sembro diverso. Porti tagli al posto tuo, cuciti addosso. Solo come me, come me, come me, che cosa ti è successo? Dici di cambiare, poi resti lo stesso. Ero la tua casa, ora sono tutta la città. Ancora un altro passo, per amarti non mi devi chiedere il permesso. Tu, eri tu, sei sempre stato tu. So decifrare tutti i tuoi pensieri qui, davanti a me. L'immagine, lo specchio stanco dei tuoi giorni neri. Sono come te, come te, come te, ti sembro diverso. Porti graffi al posto, tu cuciti addosso. Solo come me, come me, come me, che cosa ti è successo? Credi di scappare, ma sei ancora qui adesso. Che cosa hai da guardare, pensi che sia facile? Hai paura di affrontare un uomo fragile. A volte sai, faccio fatica a respirare, e basterebbe un soffio per farmi spezzare. Dicono che se credi in te non è difficile, ma in questi giorni sembra tutto impossibile. A volte neanche riconosco il mio riflesso. dove più nascondersi, ti vedo attraverso. Ero la tua casa, ora sono tutta la città. Ancora un altro passo, per amarti non ti devi chiedere il permesso. Gente in strada, non trovare scuse, facciamo serata. Guarda questa luna, quasi sembra finta. Tanto lo sapevo che ti avrei convinta. Ci giriamo intorno come terra e sole. Certe cose poi si spiegano da sole. Resti qui con me o continuerai a scappare. Dimmi cosa vuoi fare. Non parliamo né più, ma mai più davvero. Tutto quello che so io non so il capitano. Al golfo ballano le navi in mezzo al mare mosso, il vento sfiora la schiuma delle onde, le schiene già abbronzate, le spiagge più affollate, e tu che parli al vento, io ballo fuori tempo. Non parliamoci più, ma mai più davvero. Ho visto piovere, cadere già troppe volte il mio cielo. Fra la gente ne giù come sabbie mobili, oh, oh, oh, oh, nel fondo del mare, oh, oh, oh, oh. Fra la gente nei bar la notte non è mai finita, questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra. Quando torno posso dirti una bugia, ma che male fa? Mentre balli tra le ombre con un velo di diamante sulla fronte, mi sorridi e poi vai via. E ti seguo per un attimo come un pensiero, dove ti nascondi se cade il tuo impero? Dimmi cosa vuoi dimenticare. La luna taglia il cielo in verticale. Stanotte siamo due frammenti di vetro, resti sulle labbra come un segreto. E io non ti ho mai detto come amare, come fare, come si fa a incontrarsi in un'altra città. E se mi perdo questa notte vienimi a cercare, balliamo al buio come le falene sotto una luna azzurra di Colombia, con il vento che suona una cumbia. E ora non ho niente da perdere, ora che sei con me stasera, nella pioggia dell'estate sotto il sole. Portami via che non importa dove, portami via che non importa. I've been waiting for you all day, and I don't want you to know. I hear the door knock, gonna keep you here with me. Working 9 to 5, gonna dance around you my way. Come on, let me lead you on. It's all the front air, it's a really bad idea. But I pull you in like I'm a tornado. Baby, we can stay here if we just lay low. No, you can't avoid me when I'm calling.

tre giorni in fila all'ufficio comunale. Giuminonia che ho pulito si è scassato terminale. Era nuova che bellezza ma voleva un cornicia. Ma mo non passa giorno senza che la giacca c'ha. E davvero ora a casa Jonathan, documenti. Sono guardie le capite e amo in un posamento. Prefetta in zona botta si asciuga documenti. Si danchiava cappettina, sai come fai contento. Mo passa questa storia, ma sono scassato cazzo. Rondo rondo documento, blindo sono e chiesce pazze. Rondo rondo rondo rondo rondo rondo rondierà. Rondo rondo rondo rondo rondo rondo rondierà. Sento documento che ti piace dalla mente. Documento non voglierà. Me ne passa po' cazzo la dito. Sto voglio ricere e tu voglio cantare. Sento documento che ti piace dalla mente. Documento non voglierà. Me ne passa po' cazzo la dito. Sto voglio ricere e tu voglio cantare. Andano a fottere a galera, nemo come metta nome, io moglie non è maniera. Momo chiava, faccio cazzo su marone tesserina. Senta pozza, manco più, cago cazzo ogni mattina. Allora, a mia moglie, se cerco documento, che la muovo bene, caccia i su più contenta. A mio figlio, se cerco documento, ma guardare in da gonnola e non capisce niente. Furi sulla, se cerco documento, ma cado sotto il sesso, caccia immediatamente. Furi sulla, se cerco documento, chiamo il terminale, ma controllo i precedenti. Cerco documento, cado piaccio dalla. Cosmo Italia. Italia. Ogni volta che scendo all'inferno mi ritrovo a guardarmi allo specchio. Sulle spalle le cose fatte, tra le labbra rosse le tue sigarette. Ogni mese c'è un giorno d'inverno, ogni mare che è stato ruscello. Ogni sasso, ogni ragno, ogni uccello, ogni volta che dormo da sveglio. Ogni volta che dormo da sveglio. Ogni volta che sbaglio, poi mi dico che è meglio. Ogni volta che... all'inferno, mi ritrovo a guardarmi allo specchio, sulle spalle le cose fatte, tra le labbra rosse le tue sigarette. Ogni giorno c'è chi è di ritorno, ogni amore promesso in eterno, ogni uomo in realtà è mio fratello, ogni volta che dormo da sveglio. Ogni volta che dormo da sveglio.